Non sai che fra un po' dorme anche papà. E quando chiedo questo gli occhi miei, lo sognerà di te, tesoro mio, mio piccolo girasole, tesoro mio, io canto così per te. Amore mio, perché non dormi? Non sai che penso, penso sempre a te. E tutto questo che tengo nel cuore lo provo per te, mio amore. Tesoro mio, mio piccolo girasole, tesoro mio, io canto così per te. Tesoro mio, mio piccolo girasole, tesoro mio, io canto così per te. Amore mio, perché non dormi? Non sai che fra un po' dorme anche mamma. E quando chiude quegli occhi suoi, sognerà della sua gioia. Tesoro mio, mio piccolo girasole, tesoro mio, io canto così per te, io canto così per te, io canto così per te.